Ho sempre giudicato mia madre che non ha mai avuto un uomo, ma ora la capisco, perché sono in grado di farti sentire piccola. Sì, sono in grado di farti sentire stupida e tu sei un ingrato. Del nostro sogno nascosto il prezzo, raccolgo le mie forze e me le accendo. Se sono in grado di non sentirmi piccola, se sono in grado. Hai ripreso a bere e non è più un lavoro, ed io vorrei capire cosa ti manca davvero. La coca e gli occhi gonfi, riflessi nello specchio. Tu che voli a tuo padre anche quando non c'è. Le notti passano lente, cammini in corridoio mentre cerchi qualcosa che nemmeno io trovo. Le mani nelle tasche, i pugni chiusi stretti come se il mondo fosse contro di te. I tuoi segreti sparsi nel tuo silenzio, ed io che mi raccolgo sperando in un momento. La voce che si spezza mentre guardi nel vuoto. Io che ti aspetto, ma che ti aspetti da me? Ho sempre giudicato mia madre che non ha mai avuto un uomo, ma ora la capisco, perché sono in grado di farti sentire piccola. Sì, sono in grado di farti sentire stupida. Tu sei un ingrato. Del nostro sogno nascosto il prezzo, raccolgo le mie forze e me le accendo. Se sono in grado di non sentirmi piccola, se sono in grado di non passare più stupida. Cercavo tu sei un modo ingrato. Per scappare da me, ma non aveva senso. Dentro allo specchio ci ho visto le tue paure, ma quanto erano buie per non volermi mai. Dentro agli occhi tuoi davvero, per quello che mi dai dovrei darti molto meno. Tanto so che ci rincontreremo sempre, anche quando arriveremo troppo tardi. Ma ti perdo negli abissi della notte, con il traffico e le palpebre pesanti. Ho sempre giudicato mia madre che non ha mai avuto un uomo, ma ora la capisco, perché sono in grado di farti sentire piccola. Sì, sono in grado di farti sentire stupida. Tu sei un ingrato. Del nostro sogno nascosto il prezzo, raccolgo le mie forze e me le accendo. Se sono in grado di non sentirmi piccola, se sono in grado di non passare per stupida. Tu sei un ingrato.